Poche cose, no? Quell'incontro di oggi l'avevamo programmato prima di quello che è successo in Palestina, che ovviamente non si conclude oggi con il cessato il fuoco, ma diciamo è una cosa piuttosto importante. Scusate però un attimo, o lo diciamo dopo, vediamo perché stanno scrivendo per avere il link, devo seguire queste cose qua, quindi Bene. gente che si sta Collegando. collegando adesso. Daniele, però sistema quell'accidente di schermo perché ti si vede da metà naso in su. Devi abbassare verso di te lo schermo. No, no, bene, bene, Perfetto. va bene così. Così è perfetto. Perfetto. Ma intanto noi possiamo chiacchierare o no? Francesco ha introdotto quel tema che dovremmo senz'altro capire. No, c'era questa un'altra richiesta di partecipazione, devo riuscire a mandare tutto il link. Stavo dicendo che ovviamente, a parte il discorso di una solidarietà incondizionata con i palestinesi e anche a prescindere dalla provenienza etnica, con tutti quelli che si battono contro la politica di terrorismo di Stato, di pulizia etnica, di apartheid dello Stato sionista, ci sono una serie di cose che si stanno muovendo in questo periodo. Qualche tempo fa avevamo diffuso una lettera dei giovani che si stanno rifiutando di andare nell'esercito israeliano, che è una cosa molto interessante, perché si rifiutano dicendo che si va per opprimere i palestinesi, non per difendersi. E anche in questi giorni ci sono state una serie di manifestazioni, di prese di posizioni da parte di elementi organizzati o individui israeliani o arabi palestinesi o palestinesi contro tutto quello che sta succedendo e che va avanti. Penso che sia interessante cercare di organizzare per diffondere e far conoscere innanzitutto una serie di posizioni che sono poco note qui, perché l'egemonia politica del sionismo è grossissima. E soprattutto io direi che dovremmo affrontare una serie di discorsi che si parla di pace, di risoluzione del conflitto, di sistemazione della questione, se lo facciamo da un campo israeliano. Non si può certo parlare di queste cose se non si fa finite, se non si fa finita anche col sionismo, con questo Stato che esiste. In campo palestinese, per ragioni differenti, noi possiamo ben dire che da un lato la componente OLP di Abu Mazen, dall'altro quella cosiddetta islamista di Hamas, non solo non sono in grado di portare avanti conseguentemente una politica per l'autodeterminazione dei palestinesi, ma sono addirittura diventati impedimento a questa possibilità, una cosa che la blocca, e non parliamo di emancipazione sociale più in generale. E la cosa più importante forse è anche cogliere la difficoltà a contenere le contraddizioni che ci sono anche in Israele e in Palestina. E l'elemento più lampante è questa scesa in campo degli arabi palestinesi, gli israeliani di serie B che si sono mobilitati in massa contro i israeliani. E sentendo anche quello che si muove lì, iniziano a circolare prese di posizioni che vanno nel senso di uno Stato unico, antisionista, che ponga fine alla barbarie che è in corso in Palestina. E questa cosa si sente sia in campo israeliano che in campo palestinese. E noi vorremmo riuscire a portarli, riuscire a farlo diffondere. Nel 2018 avevamo contribuito a questa cosa quando è stata fatta l'Università di Milano. potrebbero essere sia gente come Jeff Alpers e il Comitato contro la demolizione delle case, potrebbe essere Rompere il Silenzio, che è un'organizzazione di militari che raccontano quello che viene fatto realmente a Gaza, e così via. E penso che la cosa importante, chiudo qui, non solo sia per contrastare le politiche che ci sono qua, che sono state di appoggio senza mezzi termini di tutti i partiti, centrodestra, centrosinistra e pseudo estrema sinistra, alla politica israeliana, ma lo facciamo non solo per una solidarietà umana e politica con queste persone, palestinesi e israeliani che si oppongono, ma perché quello che succede laggiù è proprio un anello di una guerra generale contro l'umanità che vorremmo far smettere, e quindi vorremmo dargli voce anche in questa occasione. E in questa cosa è quello che cerchiamo di fare. Ecco. Ho chiuso, Marco. Io concordo, tranne per la guerra contro l'umanità, per me è una guerra specificamente contro il proletariato medio orientale e mediterraneo, ma comunque l'importante è fare l'iniziativa che tu proponi, e muoviamoci al più presto e al meglio che possiamo. Se posso solo dare una piccola notizia, per noi sarà insignificante, ma secondo me è importante nel contesto. I giovani iracheni della rivoluzione d'ottobre sono partiti, cioè hanno mandato una delegazione molto nutrita in Palestina. I giovani, scusa? Della rivoluzione d'ottobre del 19 in Iraq, che sono ancora in piazza, che sono ancora ammazzati per le strade e davanti alla porta di casa, e che mantengono una posizione molto chiara anche non solo sul Medio Oriente e sulla loro situazione, ma anche sulla questione palestinese, e molti sono partiti per la Palestina. Marco, non ti si sente. Marco, devi riattivare la... il microfono, Marco. Scusate, avevo tolto per non rompere. No, dicevo, vogliamo far partire il Daniele, aspettiamo ancora... facciamo partire Daniele, dai, sono le 18:15. Va bene. Ok, se Daniele vuole può iniziare quando vuole. Ok, allora iniziamo subito. Non vi terrò più di 30-35 minuti massimo. Questo racconto su Sahel è solo una parte minoritaria di quello che ho rappresentato ormai da un anno questa parte dal vivo. Non solo ho scelto di fare una parte minoritaria, quindi in questo tempo qua, perché credo che online non sia il caso di stare il tempo che mi prendo quando sono in presenza fisica, ma anche e soprattutto perché da parte vostra è trattato bene, in modo approfondito, tutte quelle questioni che fanno parte del mio racconto sul Sahel, ma che poi di fatto intercettano tutto il bacino del Mediterraneo, tutte le contese sulla Libia, Turchia, i confronti, quindi tutta quella parte non la tratterò un po' più specificatamente il tema dell'Africa e del Sahel, cercando di dare delle notizie che secondo me danno delle ragioni del perché i vari attori internazionali si stanno muovendo e interessando a questa regione. Quindi parto cercando di mantenere questa mezz'oretta. Allora, intanto l'interesse generale dell'Africa per l'Italia. L'Africa ha un grande interesse per le posizioni italiane. Ricordiamo che si contende con la Francia di fatto il primato degli investimenti europei, per esempio nel 19 avevamo superato i francesi, ma più che interesse dell'Italia in sé si deve parlare dell'interesse dell'ENI. Diciamo che gli interessi italiani sono un copia e incolla degli interessi dell'ENI e viceversa. Per capirci, l'ENI è lì dal 1959 sul continente africano, ma esattamente nella zona geografica che sarà oggetto di trattazione oggi, cioè la fascia nord dell'Africa, ovvero la parte sud mediterranea, il Sahel, che è questo corridoio che di fatto lo divide invece dal Golfo di Guinea, cioè dall'Africa equatoriale. Diamo due dati, così ci capiamo cosa vuol dire ENI per questa zona, per l'Africa in generale e per questa zona che ho tratteggiato. L'80% di tutti i barili di petrolio che vengono estratti ogni giorno a livello mondiale dell'ENI, l'80% si estraggono in questa zona, che ho detto. E idem il gas, anche se la quota del gas è percentualmente molto inficiata dal grandissimo giacimento di Zohr in Egitto che l'ENI ha messo in produzione. Quindi ecco che questo copia e incolla degli interessi italiani tra in Italia e viceversa è dato proprio dalla storica presenza della nostra, sottolineo, unica di fatto multinazionale o comunque società di un certo rilievo internazionale. Se questi sono gli interessi italiani, allora è conseguente, è necessario, non deve assolutamente stupire che delle 46 missioni all'estero, 23 nostre, parlo delle nostre italiane, ovviamente 23 sono situate in Africa, ma soprattutto che le 5 nuove missioni deliberate per il 1 maggio del 2020, ben 4 sono operative nel continente africano. Le cito brevissimamente: una è la EUNAVFOR Med-Irini, operativa nel Mediterraneo, l'altra è quella specifica nel territorio del Sahel, la Task Force Takuba. L'altro è il dispositivo aeronavale per entità di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea, e l'altro è il fiancheggiamento del lato sud della NATO. Che cos'è il Sahel? Una volta che abbiamo capito che noi siamo interessati a questa zona geografica, il Sahel geograficamente è un corridoio che si stende dall'Atlantico sino al Mar Rosso e che divide la parte mediterranea dall'Africa dalla parte equatoriale. Non è una semplice nozione di geografia, perché Israele non ha grandi ostacoli geografici, non è delimitato geograficamente, è proprio ed è stato storicamente una zona di grandissimo passaggio, ma di grande connessione tra est, ovest, tra nord e sud. Di fatto si può dire, e poi lo vedremo in pratica con i flussi migratori, che tutto ciò che succede nel continente africano in linea generale, che ha un interesse a scaricarsi sul bacino del Mediterraneo o sull'Europa, necessariamente, obbligatoriamente, deve transitare dal Sahel. È stato presentato, l'incontro questa sera, una cartina che è corretta dal punto di vista propriamente geografica di che cos'è Sahel, cioè l'area, diciamo, sahariana. Però la geografia, i geografi hanno sempre difficoltà a delimitare una zona dal punto di vista geografico, perché i limiti, cioè gli strumenti per delimitarla, sono tantissimi, vanno dall'orografia, dall'idrografia, ma vanno anche dalla cultura, dalle lingue e vanno anche dalla geopolitica. E quindi stasera vedremo come interessi geopolitici dilatano il concetto geografico del Sahel, che non è solamente della cartina che voi avete presentato, ma si estende proprio a fondo anche nel Corno d'Africa, è già compreso l'Eritrea da parte della geografia, intendendo il Sahel, ma si estende là, sino al Mar Rosso, che sta diventando un punto cruciale per l'energia e per il transito dei cavi di internet, che ricordiamo il 97% via mare, e di questo quasi il 60% transita proprio attraverso il Mar Rosso. Quindi il Sahel ha assunto un'importanza geografica dilatata proprio per gli interessi geopolitici. Ma perché si sono interessati geopoliticamente del Sahel? Grande scatolone di sabbia con un PIL che è uno tra i più bassi al mondo. Le ragioni sono diverse, non solo per le risorse naturali che ci sono, ricordiamo quelle tradizionali, l'oro, l'uranio, il cobalto, soprattutto l'uranio, gli interessi francesi, dove lì culturalmente sono sempre stati presenti, quindi hanno storicamente un forte interesse, ma perché si sono aggiunti altri due elementi, due risorse importanti. Uno sono le terre rare. Le terre rare, come sapete, sono quella somma di minerali che servono sostanzialmente per far funzionare qualsiasi dispositivo elettronico. Per cui nell'era della digitalizzazione dell'economia, se non ci fossero le terre rare, noi non saremmo in grado di produrre merci e soprattutto servizi. Non sono rari perché sono rari in sé del globo, sono abbastanza diffusamente presenti, ma sono rari per due motivi. Primo, perché costa molto estrarle, secondo, qui in una maniera massima. E quindi non è un caso che ancora oggi la Cina, dove lo diciamo delicatamente, proprio dell'ambiente non è che sia molto interessata, rappresenta ancora oggi al primato dell'estrazione delle terre rare. Il Brasile segue a ruota, altro paese in cui ecologicamente non vanno tanto per il sottile. Ma è soprattutto l'alto costo, e quindi è chiaro che le terre rare vengono estratte dove il costo della manodopera è inferiore. Ecco un punto di attenzione. Se l'Africa è al centro della geopolitica, in particolare questa zona, il Sahel, che l'abbiamo detto, attenzione, sempre allargato, che va sino al Corno d'Africa, è perché lì c'è questa ricchezza fondamentale, che è il costo bassissimo della manodopera, che è una delle ragioni della presenza dei cinesi, oltre che l'Africa è un passaggio obbligato per la costruzione della via della seta, quindi di questo grande via commerciale. Tutti i prodotti a minor valore aggiunto, che una volta, sino a 20 anni fa, si fabbricavano in Cina, la cosiddetta fabbrica del mondo, oggi con capitali cinesi si fabbrica in Africa. Ma in Sahel, accanto alle terre rare, ha l'altra ricchezza, che sono le braccia umane, cioè che sono i migranti. Io credo fermamente, da molto mi batto, per cercare di vedere le migrazioni non solo sotto il profilo etico e morale, ho detto non solo, perché ci mancherebbe altro, quotidianamente assistiamo a tutto ciò che il Mediterraneo purtroppo ci fa assistere, ma bisogna anche sforzarsi di andare in là di questi aspetti e capire che le braccia umane rappresentano una componente fondamentale ancora oggi nel modo di produzione, cioè una delle componenti del capitale. Chi controlla le braccia umane e necessariamente, come ho detto io prima, chi si muove dall'Africa, da dovunque parte venga, obbligatoriamente deve transitare dal Sahel, da questo corridoio. Tanto vero che la Commissione europea ha definito Agadez, che è una delle città più importanti del Niger, come la prima frontiera sud europea, la prima frontiera sud dell'Europa, perché lì è il punto di concentramento di gran parte dei migranti, controlla quello che io chiamo questi rubinetti del costo del lavoro, che si aprono e si chiudono a seconda delle esigenze del mercato occidentale e del mercato europeo. Ricordiamo che molte comunità europee vivono, non possono più fare a meno di sostenere la concorrenza globale dei flussi migratori, che siano clandestini, che siano in qualche modo regolarizzati, ma che comunque storicamente hanno sempre prodotto la migrazione, e in particolare ancora oggi, un bassissimo costo del lavoro. Ci sono intere settori economici, tra i quali cito l'agricoltura, per cui i paesi, soprattutto che gravitano verso l'area mediterranea, Portogallo, Spagna, sulla Francia, Italia e Grecia, senza l'apporto della clandestinità, cioè dei migranti o di quelli regolari, tra virgolette, non potrebbero mai sostenere la concorrenza del Nord Africa di certi prodotti agricoli. Quindi l'aprire o chiudere i rubinetti dei flussi migratori e in ogni caso controllare i flussi migratori è una ricchezza che il Sahel offre e che giustifica la presenza di varie missioni militari nell'area. Tanto vero che se noi nello specifico andiamo a vedere la composizione delle missioni militari proprio dal punto di vista tecnico, cioè cosa fanno, ci accorgiamo che queste missioni militari in realtà non sono lì per proteggere fonti di materie prime, ma sono lì proprio per monitorare questa ricchezza delle braccia umane. La Francia è quella che storicamente è sempre stata presente, ancora oggi a circa 4.000 4.000 soldati. I costi però per il mantenimento di queste truppe stanno diventando elevati. È un problema controllare un territorio immenso che non ha barriere naturali, che è in preda a 1.100.000 convulsioni, in cui si scaricano le tensioni che sono proprie dei paesi dell'Africa mediterranea, così come sono proprie anche dei paesi dell'Africa subsahariana, e quindi ha indotto a malincuore la Francia ad aprire la sua posizione di preminenza dal punto di vista militare all'Europa, chiedendo all'Europa un aiuto. Sono circa 12 paesi che partecipano, e creando la Task Force Takuba. Però la Task Force Takuba in realtà è un'apertura verso l'Italia, concorrente diretto della Francia, non solo per gli interessi energetici, ma anche per gli interessi industriali. L'Italia in realtà non solo è presente con le nuove missioni militari e la missione Task Force Takuba, che è quella più importante per il controllo del territorio del Sahel, ma si era già in qualche modo premunita, anticipata la presenza militare, perché sono state aperte dal 2017 sino al 2019 le ambasciate in Niger nel 2017, così in Guinea nel 2018, in Burkina Faso nel 2019. E l'apertura di queste ambasciate, guarda caso, hanno sempre poi prodotto immediatamente come primi atti accordi di cooperazione in materia di difesa, in materia militare. Ma l'Italia era già presente, anche se numericamente in forze ridotte, nell'area del Sahel. Era presente in tutti i paesi, diciamo nel centro del Sahel, in Mali, in Niger. Non sto a elencare le varie missioni, erano la MISE, la MINUSMA, l'EUCAP Sahel, l'EUCAP Sala Niger e UTM Mali. E ho detto, andiamo a vedere proprio tecnicamente cosa fanno queste missioni, di che cosa sono composte, di che cosa si occupano. E guarda caso si occupano tutte dell'addestramento delle forze, più che militari, delle forze di sicurezza, delle forze di polizia, in specifico del monitoraggio del territorio. Cioè, ritorniamo al problema di prima. Una delle ragioni per cui militarmente siamo lì non è tanto e solo per le terre rare, ma è per il controllo proprio di questa ricchezza che è rappresentata dai migranti. Ma siamo lì in particolare per l'ENI, perché il Sahel è quel corridoio che noi serve assolutamente per mantenere le nostre posizioni di predominio, che attualmente sono nel Golfo di Guinea, che l'ENI tiene nel Golfo di Guinea, e posizioni che non sono più di predominio, ma sono in discussione invece sul lato mediterraneo dell'Africa. Quindi il controllo di questo corridoio, di questa zona, oltre che una manodopera a basso costo della migrazione, assicura sostanzialmente all'ENI proprio una porta di passaggio sicura per mantenere un ponte, per mantenere il suo predominio. Ricordiamoci quelle due cifre dell'80%, sia di gas che di petrolio, che vengono garantite dalla fascia mediterranea nord al Sahel e dalla fascia sud, che è quella equatoriale del Golfo di Guinea. Ma questo quadro sta subendo delle mutazioni. Le mutazioni riguardano un attore che sino a poco tempo fa era abbastanza defilato, se non quasi assente, sulla scena del Sahel, sempre intendendo a largo raggio, che è la Russia di Putin. Perché era assente? Perché la Russia di Putin ha avuto tradizionalmente i suoi interessi nel Medio Oriente, dove tutti noi sappiamo, con l'appoggio al regime di Al-Sisi, con l'appoggio alla frazione di Haftar in Libia. Perché a un certo punto compare per ora ancora timidamente come forze militari. In realtà non c'è una presenza militare ufficiale che è assicurata dai mercenari della Wagner, dei contratti della Wagner. ma è presente sempre più nell'aria con accordi commerciali. Perché questo? Per due ragioni. Primo, perché per me il punto sempre più importante della geopolitica non è tanto dare, va bene, una mappa di dove i vari contendenti internazionali sono presenti o del loro movimento per occupare una zona piuttosto che l'altra. Perché detto così abbiamo semplicemente una geografia della geopolitica, ma bisogna chiedersi che cosa c'è sottostante questo movimento. Se ne do una lettura io del perché l'Africa è nel Sahel attraverso la presenza dei legni, cioè attraverso la presenza, la sicurezza per assicurare all'Italia l'approvvigionamento energetico, bene, io do un'interpretazione del perché la Russia, nuovo attore, ma attore che è sempre più presente in quell'area, soprattutto nella parte del centro Africa, quindi appena sotto il Sahel, e perché bisogna capire le profonde mutazioni che la società e l'economia sovietica stanno avendo. La Russia fa parte di quelle agglomerati economici e sociali che hanno sempre vissuto da decenni di monocultura industriale, e la loro monocultura industriale è sostanzialmente energetica. Voi sapete che dal 2000 ad oggi, dal 2008, dalla crisi globale della finanza, coloro che hanno perso i valori più importanti come merci è stato il settore energetico. Non ritornerà mai più il prezzo record nel barile di petrolio a $148. Lo sapete in questi anni che il prezzo si è assestato sotto i $50 e chiedo, oggi è $65 per conoscenza il prezzo del Brent, e ricordo che in linea generale il prezzo di petrolio non sostenibile, in linea generale facendo una media dei produttori mondiali, non deve rimanere per circa 12 mesi sotto la soglia dei $50. Quindi è chiaro che l'Unione Sovietica sta vivendo una profonda crisi energetica, dei prezzi dell'energia, degli introiti, dei flussi di cassa assicurati dell'energia, e si pone il problema della ristrutturazione. Non è l'unico paese che si sta ponendo il problema della ristrutturazione, lo vediamo poi dopo. E com'è che può ristrutturarsi? Può oggi ristrutturarsi, che non è facile ristrutturarsi in una società che è sostanzialmente ferma dall'ottobre del 1917 nella sua costruzione fondamentale dell'industria, ha necessità di vendere solo e unicamente i due soli prodotti che può vendere sul mercato mondiale, prodotti di punta, che sono il materiale bellico. Ricordiamo che il materiale bellico non si parla più dei cannoni della Krupp, ma si parla della digitalizzazione, cioè del materiale elettronico, che è perfettamente duale. Oggi, dal punto di vista tecnico, lo sapete meglio di me, è praticamente il regno della digitalizzazione il prodotto militare. E quindi il prodotto militare è uno dei due prodotti che può vendere sul mercato internazionale. E l'altro che cos'è? È la tecnologia del nucleare. E soprattutto attraverso la tecnologia del nucleare si sta cercando di insinuarsi nell'area del Sahel. Tanto vero che, tenendo ferma la sua posizione in Medio Oriente, ha stretto accordi con i più importanti governi dell'Africa centrale, soprattutto con il Centro Africa, con il Corno d'Africa e oltre, naturalmente, tradizionalmente, con il Nord Africa. Non so, faccio degli esempi. Offre a tutti questi paesi la tecnologia nucleare, ha aperto una prima raffineria in Uganda, un grande centro logistico in Eritrea, idem in Somalia, si sta insediando Djibouti. Djibouti è un fazzoletto di terra rispetto alla vastità del continente africano, ma è un punto nodale, perché Djibouti è proprio l'imbuto da dove transita tutto il commercio, sia in superficie che viene dall'Oriente e che passa dal canale di Suez e sia soprattutto sul fondale dell'oceano attraverso i cavi di internet. Quindi ecco spiegata la ragione di questo nuovo soggetto che si sta inedito per certi versi insidiando in Israele, le cui motivazioni però derivano da questa necessità di ristrutturarsi perché l'economia mondiale è cambiata e quindi deve cambiare anche loro. Ricordiamo che la Russia non è la sola monocultura industriale che sta cambiando, questa è un'enorme questione che sta investendo tutte le petromonarchie del Golfo e non è un caso che una delle ragioni della sottoscrizione dei recenti accordi di Abramo sta anche nella necessità di diversificare la propria economia, ormai non regge più a questi prezzi del petrolio e del gas. Ma se c'è questa ragione economica che deriva da una ragione del mercato internazionale, quindi da un mercato interno, c'è comunque un altro tentativo geopolitico che secondo me è poco rimarcato, ma che è importantissimo, da parte di Putin della Russia. Chiedo un piccolo sforzo per visualizzare geograficamente la cartina. La Russia attraverso l'alleanza con il regime teocratico iraniano, attraverso Assad, attraverso le formazioni sciite che ci sono in Iraq, che guarda caso poi le formazioni sciite che sono presenti in Libano, che guarda caso poi vanno a sfociare nella zona di Tartus, dove guarda caso è lì presente la marina militare sovietica, spesso li confondo, ma forse c'è anche una questione per cui lì... ma è un lapsus che però sotto certi aspetti dal punto di vista sociale, politico e anche economico è un lapsus che ha una ragione d'essere. E Tartus, ricordiamo che per la prima volta sin dei tempi della guerra fredda abbiamo la marina militare russa alle porte del Mediterraneo. Ecco, questo che gli analisti chiamano l'arco sciita, che sostanzialmente l'arco di Putin è l'arco sciita, quindi l'avete capito geograficamente dove si va, dall'Iran sino sostanzialmente al porto di Tartus che sta al confine tra Libano e Siria, in territorio siriano, ecco che si scende dove? Si scende verso sud, dove è importante l'alleanza con Al-Sisi, con l'Egitto, dove è importante l'alleanza con Haftar, ma dove mancava un pezzo di questo arco per completarsi, per diventare un cerchio, che è proprio il Sahel. E quindi la presenza della Russia nel Sahel non solo è economica per quello che ho detto prima, ma perché contribuisce a scendere proprio nel centro, in questo corridoio che separa geograficamente il nord e il sud, l'est e l'ovest dell'Africa. Lì si ricongiunge, guarda caso dove va a finire nel Corno d'Africa. Ecco perché hanno fatto poi questi accordi con l'Eritrea, con la Somalia e con Gibuti. Se voi andate a visualizzare geograficamente questo movimento, vi accorgete che si disegna un cerchio perfetto, e un cerchio che ha una sua fortissima valenza geopolitica, una sua fortissima valenza militare, una sua fortissima valenza economica, perché è uno dei centri energetici mondiali, non solo per la produzione dell'energia, ma per il traffico dell'energia attraverso il Mar Rosso, attraverso i canali di Suez. E ricordiamo, ci hanno fatto ricordare un banalissimo incidente dell'incaglio della super porta container, quali riflessi economici ha in qualsiasi intoppo che può avvenire nel canale di Suez. Quindi con la presenza nel Sahel la Russia entra in competizione con la Francia, entra in competizione con l'Italia, mi piace dire entra in competizione con l'ENI più che con l'Italia, e si propone come attore globale, con un attore che apre la finestra sul vicino Medio Oriente e quindi che si propone per il controllo di tutto il Corno d'Africa e soprattutto del mare del Mar Rosso, cioè del canale di Suez. Per concludere questa breve chiacchierata, e c'è una ragione, sempre di geopolitica, che a me piace sottolineare e che si ricollega poi a tutto il discorso dell'antimilitarismo che voi avete, che io, soprattutto voi, avete sempre sviscerato in ogni sua parte. Nel giugno del 2017 si è concluso un vertice del G7 a Taormina. C'è stato un passaggio di enorme interesse per le strategie economiche, poco sottolineato dai media. Perché? Perché è venuto fuori un concetto nuovo nel quale, accanto al libero mercato, scusate il mio inglese molto macaronico, il free trade, si è aggiunto anche un'altra parola, la dico in italiano perché in inglese la cambierei totalmente, il fair, cioè il giusto e libero mercato. Il mercato libero, che è stato il mantra dell'orgia liberista degli anni 80, in parte 90, trova nella definizione del G7 un limite, che è quello del giusto. Ma che cos'è questo giusto? Il giusto è che ciascuna nazione, o meglio, ciascun agglomerato di nazioni, qui ci introduciamo nel tema che poi tratteremo più in altra occasione del recovery fund, gli interessi nazionali talvolta sono gli interessi anche di raggruppamenti di nazioni, l'Europa, che sostanzialmente è la protezione o la nazionalizzazione o la protezione del proprio apparato produttivo o di quelle parti che sono necessarie al proprio apparato produttivo. E che cos'è che è necessario al proprio apparato produttivo? E lo dice il libro bianco della difesa, anche se oramai è datato, è 2015, ma è l'unico che abbiamo, al punto 7 dice che l'interesse nazionale è tutto ciò che anche al di fuori dei tradizionali quadri di alleanze di riferimento, legacy per noi alleanza atlantica, assicura all'Italia, in questo caso il libro bianco è la difesa italiana, assicura all'Italia l'approvvigionamento delle risorse energetiche per far funzionare il proprio apparato produttivo e la protezione delle proprie esportazioni. Quindi il giusto interesse non sta più solo nel libero mercato, ma nella necessità di proteggere. E proteggere con quale strumento? Proteggere con l'apparato, ovviamente, militare, questo libero mercato, che è questo interesse nazionale di assicurarsi le fonti energetiche, che non è più l'allineamento alle classiche, alle classiche alleanze di riferimento, scritto bene nel libro bianco, ma che deve assicurare unicamente l'interesse economico del paese. Questo è. E allora, se partiamo da qui, in conclusione, capiamo il perché Israele è diventato importante da questo immenso scatolone di sabbia con dati del PIL veramente deprimenti. È diventato importante proprio per questo, perché assicura per l'Italia l'energia, come l'assicura ad altri, e quindi noi veniamo in competizione con la Francia. I conflitti con la Francia sono evidenti nell'area della Libia, sono evidenti nel nostro posizionamento con l'Egitto, sono evidenti nella vicenda ancora in piedi della nazionalizzazione dei cantieri XTX che ha fatto Macron all'atto di tentativo di Fincantieri, oggi vedi Fincantieri Leonardo per l'acquisizione di quei cantieri. L'Italia e la Francia, già iniziato con la destituzione di Gheddafi, una guerra per interposti soggetti, proseguono nel loro conflitto. Lo proseguono nel tentativo di controllare il Sahel, di proteggere le proprie fonti energetiche. E quindi tutti questi movimenti geopolitici, questo interesse che ha questo enorme scatolone di sabbia, al di là delle terre rare, al di là dell'uranio, al di là delle braccia, che ho detto prima, rappresentano un punto fondamentale per il funzionamento dell'economia europea, sostanzialmente è quello di assicurarsi le fonti energetiche e quindi sostanzialmente l'apparato militare, il complesso industriale è strumento e protagonista sostanzialmente della geopolitica. Non è un caso che i primi che sono stati ad abbandonare dal punto di vista geopolitico il quadro delle tradizionali alleanze o di riferimento sono stati i cinesi, perché i cinesi hanno una cultura millenaria molto pragmatica, e non è un caso che richiamo qui il famoso detto di Deng Xiaoping, che non è suo, ma appartiene alla millenaria cultura cinese, ma è stato diciamo, detto più famoso del lancio della nuova Cina, detto antichissimo cinese, che non importa che il gatto sia bianco o nero, l'importante è che acchiappi il topo. Tradotto, noi facciamo affari con chiunque, indipendentemente che siano bianco o nero, l'importante è acchiappare il topo e sottoscrivere il contratto. Ecco, l'Italia, l'Israel sta facendo questo, la Francia sta cercando di fare questo. Quindi siamo in un mondo in cui gli allineamenti politici, allineamenti chiamati di voi, culturali, nonché di religiosi, tutte le alleanze, a mio avviso, che si sono configurati in questi decenni, sono alleanze che lasciano il tempo che trovano, e siamo di fronte a una liquefazione, a mio avviso, di queste alleanze, perché assicurarsi gli approvvigionamenti energetici diventa essenziale in un momento di grande crisi, di ristrutturazione, e non è un caso che la parola ristrutturazione ci porta a recovery fund, che è nient'altro il tentativo di ristrutturazione. Come ha detto Draghi, avremo la possibilità di tagliare tutto ciò che è obsoleto, che non serve più, per cercare di investire dove serve e dove ci sono i profitti, che vuol dire l'apparato industriale militare, perché lì che l'apparato industriale militare si è evoluto ed è già proiettato nel mondo del digitale, più che altri settori dell'economia. E quindi, se dobbiamo proteggere questi interessi nazionali, se dobbiamo inseguire, accappare questo topo senza badare al colore del gatto, ecco che Israele ne è una riprova. L'Italia ne è una riprova, è stato detto da voi, l'ho sempre detto io nelle mie decine di incontri sul Medio Oriente in generale, sul Mediterraneo in generale. Non è un caso che in nome dell'ENI, perché la politica estera italiana non la si fa alla Farnesina, ma la si fa alla sede dell'ENI, la politica dell'ENI è una politica non delle due scarpe, ma delle 10 scarpe. Ciò che succede nel Mediterraneo, nelle nostre alleanze, contemporaneamente quello che è successo nell'estate del 19, con le esercitazioni militari con la Turchia da una parte e la sottoscrizione degli accordi per l'Est Mid Gas Forum, che è antiturco, la dice lunga. Ecco. Quindi questo, secondo me, sono le valenze del Sahel, quello che Sahel ad oggi ci dice come proiezione geopolitica e quello che ci anticipa di quelli che può essere i movimenti del quadro geopolitico, che a mio avviso, lo ripeto ancora e concludo, avranno sempre meno importanza nelle alleanze di tipo ideologico, qualora ammesso che oggi ce ne siano, o di tipo culturale, di tipo religioso, ma a mio avviso hanno un motore, se non più, ma un motore più importante, che è quello energetico ed è quello della ristrutturazione economica interna. E l'economia interna, la sua necessità di ristrutturazione che indirizza anche il politica estera. Ho terminato. Vai Isacco. Isacco, devi dire qualcosa? No, volevo. Allora, concordo perfettamente con Daniele sui punti fondamentali: controllo della forza lavoro e quindi del plusvalore, controllo delle materie prime, controllo delle vie strategiche. È il punto centrale. E voglio ricordare lo sguardo lungo della politica italiana. Enrico Mattei è stato ammazzato nel 62 dai francesi, probabilmente, o dagli americani. Enrico Mattei guardava lontanissimo perché aveva finanziato l'FLN algerino, aveva fatto già gli accordi per la spartizione, per il controllo di buona parte del petrolio e in prospettiva del gas algerino, e quella politica è poi stata portata avanti dall'ENI, anche dall'ENI di Cefis, anche se Cefis era allineatissimo agli Stati Uniti apparentemente, perché era un piduista. Ma detto questo, la proiezione della politica italiana è giustamente, come ha detto Daniele, il Sahel e soprattutto la Nigeria e il Golfo di Guinea, perché in Nigeria l'ENI, come si dovrebbe poi analizzare, ha una posizione eccezionale. Detto questo, e guardando la politica italiana nel Sahel, dobbiamo anche vedere alcuni personaggi, alcuni protagonisti a cui Daniele ha accennato, a parte il preciso riferimento alla politica russa. Primo, nel Sahel, ad Agadez, c'è il comando di AFRICOM americano. Non è un comando di grande importanza numerica, ma un'importanza politico-militare eccezionale, perché gli americani in questo momento sono apparentemente lontani dall'Africa, ma sanno che l'Africa è il continente che offre più braccia e più ricchezze minerarie, e quindi non solo il petrolio, ma guardando all'Africa in generale, soprattutto al Congo, offre tutte le materie prime del mondo. E di conseguenza l'AFRICOM diventa in prospettiva, e penso che dovremmo considerarlo, uno dei centri pulsanti del controllo militare americano del mondo, che non è più quello di un tempo, ma che comunque è quello della prima potenza. Quindi, presenza americana. Secondo, presenza cinese, che non è solo economica, i cinesi sono eccezionali da questo punto di vista, Daniele l'ha detto, ma c'è anche la base cinese a Djibouti, che probabilmente avrà 10.000 uomini e avrà la possibilità di ospitare la portaerei cinese. Poi c'è un terzo incomodo, a parte quelli di cui abbiamo parlato, che è la Turchia. La Turchia in Africa ha aperto 38 ambasciate, 38, e è presente in modo sistematico sul piano economico, commerci a buon mercato, ma anche con uomini, perché sempre a Djibouti la Turchia ha una base importante, superiore a quella italiana che è piccolina, e soprattutto in Somalia, dove la Turchia, garantendosi dietro la bandiera dell'Islam, si è installata. Quindi l'Africa, e specificamente il Sahel, come ha detto Daniele, diventa il centro di un nuovo confronto mondiale, non più continentale, non più parziale, ma mondiale. In questo quadro vediamo quello che ci interessa. Daniele ha detto giustamente: la politica estera in Africa fa l'ENI, non solo in Africa, ma soprattutto in Africa. L'ENI fa una politica estremamente abile, perché ricordiamoci che non ha mai abbandonato le basi che ha conquistato. E quelle basi produttive dell'ENI sono anche basi militari, perché sono controllate da un esercito dell'ENI, piccolo ma agguerrito, e dall'esercito italiano. Ecco perché la presenza non solo italiana in Libia, ma anche adesso finalmente in concorrenza, nel senso che si concorre con la Francia, si corre assieme un pezzo perché la Francia non ce l'ha fatta, con la missione Takuba, oltre alle altre missioni che Daniele ha citato, in cui noi facciamo da istruttori della polizia e poliziotti locali. Bene, cosa significa la presenza italiana militare nel Sahel? Significa una presenza che non finirà, una presenza che aumenterà sistematicamente, perché in quell'enorme scacchiere ci vogliono migliaia di uomini di ogni paese e non bastano. Sarà una presenza costosissima, perché la Francia, ad esempio, ha 4.500 uomini di una forza speciale di attacco che costa miliardi all'anno, e se noi giungeremo, come giungeremo, a più di 1.000 uomini, avremo bisogno di mezzi, noi, loro voglio dire, avranno bisogno di mezzi aerei, di mezzi di controllo elettronico e di strutture di difesa e di attacco costosissime per tenere quei 1.000 uomini italiani e non dipendere solo dai francesi o dagli americani. L'Italia, da questo punto di vista, nel Sahel, come ha detto Daniele, gioca con il piede in 10 scarpe, e uno dei piedi, delle scarpe più importanti per l'Italia è proprio la Russia. Prima del casino ultimo dell'attacco di Haftar 2 anni fa a Tripoli, alla Tripoli protetta dall'Italia, avevamo un accordo tra Eni e Gazprom per lo sfruttamento del gas libico. Uno. Due. In questo momento l'Italia, posizionandosi a sud della Libia, cioè con la missione Takuba in Niger, sta a due passi dal Fezzan, che è il sud della Libia, e che è il territorio più importante dal punto di vista energetico per il futuro, in cui sia i francesi, sia gli italiani, sia i russi hanno degli interessi, degli appetiti fortissimi. Ora, cosa significa che l'Italia gioca in 10 scarpe? La scarpa francese, la scarpa russa, la scarpa americana, perché formalmente abbiamo sempre un ottimo rapporto con il CENTCOM. La scarpa egiziana, perché abbiamo degli accordi militari con l'Egitto e siamo fornitori di importanti armi all'Egitto. La scarpa del Mar Rosso, l'Italia tornerà senz'altro in Eritrea se non in Etiopia, non dal punto di vista coloniale ma dal punto di vista politico. Cosa significa questo? Significa che l'imperialismo italiano, per sviluppare la sua politica in Africa, si armerà sempre di più, e noi vedremo lo sviluppo di una sistematica azione della Marina, due portaerei proiettate davanti alle coste africane, dell'aviazione, gli F-35, che forse verranno schierati in futuro nelle basi al centro dell'Africa, perché Takuba significa anche missioni aeree, e con forze speciali mosse segretamente o apertamente dalla Presidenza del Consiglio. Allora, Baggiù, può venire con me? Scusa? A questo punto, quindi, l'attenzione alla politica italiana, al militarismo italiano nell'Africa è fondamentale e dobbiamo cercare di suscitare un certo interesse sulla questione per avviare dei movimenti politici, non semplicemente antimilitaristi, ma dei movimenti politici che mettono in luce che partecipiamo e attaccare l'imperialismo italiano e attaccare l'imperialismo francese serve anche a togliere la pressione, a impedire il massacro che sta avvenendo di una parte del proletariato africano proprio in quella zona. Quindi sono temi che giustamente come centro di documentazione stiamo cominciando ad aprire e che dovranno rimanere al centro della nostra attenzione. Finisco. Le 10 scarpe porteranno l'Italia al disastro, ma questo è probabile e dobbiamo vedere. Senti Paolo. No, finito. Andare anche a casa sua. Ma sarà dietro a lei. Poi per la fine è morta una parola suocia di uno, ma e quindi è dovuto andare anche lì. Pensa un po'. Meno male che sto qui, va sempre dappertutto, non so come fa. E per favore, chiudete i microfoni se non dovete parlare, perché sennò vi si sente dentro. Posso aggiungere qualcosa? Brevissimo, un intervento. Intanto complimenti. Due cose che voglio sottolineare. Nel cinquantenario della strage di Piazza Fontana, abbiamo fatto un convegno abbastanza molto partecipato, sono stato incaricato di fare la relazione sulla situazione internazionale che poi ha portato dal dopoguerra alla strage. E io ho detto una cosa che ha suscitato molte perplessità all'inizio, mentre la dicevo, ma poi è stato oggetto di grosso dibattito, che la prima strage di Stato in Italia non è stata quella di Piazza Fontana, ma è stato l'assassinio di Mattei. Perché lì lo Stato ha dovuto fare, al di là degli attori, che sono o i francesi o gli americani, poco importa chi ha messo la bomba o no, cioè poco importa, è chiaro che l'interesse era quello di scardinare completamente il progetto industriale dell'ENI, quindi la sottoscrizione di questi contratti bilaterali con un mondo che era impensabile che l'Occidente avesse a che fare direttissimamente, quantomeno senza il permesso della NATO, degli USA e degli altri partner occidentali. E lì lo Stato è stato silente, ha coperto tutto, così come ha fatto con Piazza Fontana. Quindi lì l'Italia ha preso una direzione opposta a quella che poi avrebbe potuto prendere da un punto di vista geopolitico, sempre tenendo d'occhio l'interesse del mondo. Quindi, secondo me, la prima strage di Stato è stato proprio Mattei. Mattei è stato il punto di svolta della politica italiana. Secondo, concordo benissimo quando hai detto gli obiettivi politici. La dico molto semplice e finisco. Alla fine della fiera, quello che io propongo nel mio discorso e del ragionamento, visto che anche tu sostanzialmente sei aderente al quadro di riferimento che io ho fatto, alla prossima se organizziamo, la dico banalmente e semplicemente, una manifestazione antimilitarista, beh, dovremmo essere in grado di individuare l'obiettivo principale e la comunicazione principale, che non è quella del pacifismo degli anarchici di fine 800 o di inizio 900, non siamo più nell'epoca di Pietro Goro. Oggi il nostro obiettivo antimilitarista ha un nome e un cognome, l'Ente Nazionale Idrocarburi, e lì si va a manifestare non solo sotto Leonardo, che è facile, ma si deve imparare ad andare a manifestare cogliendo esattamente l'obiettivo. Andiamo a manifestare alla sede dell'ENI, perché quello è è il cuore del sistema militare, di cui è semplicemente uno strumento. Quindi il sapere, cioè avere questi quadri di riferimento, non è solo un esercizio intellettuale o dare informazioni, ma anche saper cogliere concretamente l'obiettivo politico. Per cui la prossima manifestazione o presidio, propongo, come ho proposto ad altre realtà, non facciamo una manifestazione sui toni del pacifismo. Ci sono ancora alcuni compagni che dicono che bisogna riconvertire l'industria militare, pensati che roba, come se Leonardo potesse fare il burro anziché il cannone. Siamo ancora a questi livelli del Pietro Gori, pace a Pietro Gori, ma siamo a questi livelli. Ma dobbiamo individuare esattamente l'obiettivo. L'obiettivo è l'ente nazionale idrocarburi. Grazie del tuo intervento. Francesco ha chiesto la parola? Ha sì. Alzato la mano? Sì, se posso. Volevo dire una cosa che mi ha molto interessato della relazione di Daniele quando ha tirato in ballo l'aspetto che sì, c'è la... quello che si è parlato adesso, la questione energetica, minerali, eccetera. Controllo delle braccia umane. Controllo delle braccia umane è una cosa che penso sia fondamentale e necessiti di ulteriori approfondimenti, perché non è semplicemente, come può sembrare apparentemente, che controlli le braccia umane regoli. Cioè c'è proprio un intervento finalizzato dall'Italia, e non saprei dagli altri paesi, ma presumo lo stesso, sulla questione dell'immigrazione. Il Sahel appunto è quello scatolone di sabbia fondamentale per i passaggi, e l'Italia, dal poco che ho visto, la chiudo subito come contributo, nei paesi dell'area del Mediterraneo e del Sahel, in 25 paesi dal 2015, ha sistematizzato un intervento fatto da ONG, strutture di ambasciata, aziende di vario genere, che sono finalizzate a bloccare l'immigrazione tramite cooperazione allo sviluppo in loco, sostegno alle forze di sicurezza, cioè sostegno che è non solo addestramento ma è finanziamento, protezione in loco dei rifugiati, cioè i rifugiati, si creano delle strutture per proteggere i rifugiati in queste aree e si impedisce a loro di avanzare. Tra l'altro gioverebbe ricordare che nell'area sub-sahariana del Sahel e del Centrafrica c'è il maggior numero di migranti bloccati al mondo. Si gestiscono i rimpatri, si fanno campagne informative nei cinema, sui giornali, nei tabelloni, sui rischi delle migrazioni irregolari verso l'Europa. È un approccio che è gestito anche con fondi europei. Chiudo dicendo, l'Italia ha speso cifre innominabili. Per dire, in Niger ha 32 progetti attivi e 99 milioni e mezzo di euro che sta utilizzando per questa cosa. In Sudan 57 milioni e mezzo e 21 progetti. In Chad 12 milioni e 3 progetti. In Niger 99 milioni, in Mali 5 milioni e 7 progetti. Paesi del Sahel, del Corno d'Africa, l'Italia sta intervenendo per bloccare l'immigrazione con tutti questi soldi, con queste strutture e con le truppe. Direi che è una cosa che dovrebbe essere oggetto di un nostro studio ulteriore, perché diventa uno degli elementi fondamentali della presenza militare nell'area. C'era la Valeria? Valeria, avevi alzato la mano? Sì. Puoi parlare. Allora, resta poco da dire, solo due note. Uno, i paesi europei, paesi europei, Russia, Stati Uniti, tengono ovviamente ad avere l'esclusiva della tecnologia. Cioè, vendiamo prodotti tecnologici, è giusto, il mercato delle armi si è focalizzato e si è espanso soprattutto in questa direzione, ma ci teniamo ben stretta la capacità di sviluppo tecnologico, e questa è un'altra forma di guerra è una forma per mantenere sottoposti paesi che, dai quali traiamo lo sviluppo, la ricchezza. Fanno leggermente eccezione, stanno cercando di svilupparsi adesso, paesi intermedi come la Turchia, che cerca di produrre una propria tecnologia, ma non essendone in grado, è comunque costretta a rischiare le sue truppe sul terreno, cioè noi facciamo una guerra più che dietro le quinte, da remoto, la guerra tecnologica la guidiamo da remoto. Chi non ha questa possibilità, ovviamente, deve fare la guerra con gli eserciti. È il caso della Turchia, parzialmente della Russia. È una situazione che chiaramente prevede di allargare i conflitti combattuti anche sul terreno e anche di allargare le aree dei conflitti. E su questo forse, vabbè, ci sarebbero da dire due parole, ma... l'altra cosa, non mi ricordo più come si chiama, l'importanza delle basi, delle quali ovviamente le medie potenze, Italia, Francia e via di seguito, sono costrette a cooperare, ma predispongono un cuneo di azione che si può portare avanti insieme per poi scandarsi al loro interno. Piacerebbe capire come la competizione, il conflitto e eventuali fatti bellici accadranno tra queste potenze che adesso si stanno coagulando per portare un attacco là dove c'è la torta grossa, dove c'è il grande bacino di ricchezza. Ultima cosa, Eni. Eni non solo tiene in piedi tutte le scarpe, conduce la politica estera italiana, conduce anche un progetto di sviluppo e di diversificazione del mercato dell'energia e della ricerca dell'energia, che è l'economia verde. È stata forse tra le grandi multinazionali dell'energia la prima a dirigersi in questo senso. Per farla brevissima, una volta che facciamo del grande fiume, del grande lago, una grande pila, una grande batteria, non solo c'è la rovina dal punto di vista ecologico, ma c'è un'altra, un'ulteriore ristrutturazione del di esistenza del capitalismo, e dei conflitti. Erano tre domande, insomma. Marco, se Valeria è finito, vai tu. Sì, mi riallaccio proprio a quanto ha detto adesso Valeria, perché mi era venuto in mente prima che intervenisse Valeria sulle parole che aveva detto Daniele e anche Ivo. Saranno sei mesi a questa parte che casualmente mi sono interessato a vedere e controllare la comunicazione pubblicitaria di Eni. La comunicazione pubblicitaria di Eni non si tratta di una locandina dove ti dicono prendi da noi la benzina perché è più bella, più buona, costa meno. No, hanno avviato una campagna che ognuno di voi se vuole la trova in giro, proprio dentro e in attesa di quel meccanismo che nel Recovery Fund chiamiamo transizione ecologica. Quindi da questo punto di vista sono stati, diciamo così, previdenti, evidentemente hanno a disposizione forze, mezzi pubblicitari, e quindi hanno avviato una campagna che riguarda l'energia, che riguarda lo sfruttamento delle alghe. Guardate, si potranno magari mettere insieme questi 10-12 modi di comunicare, ma che chiaramente presentano questa Eni come qualcuno che sta sul pezzo, che quindi qualora sarà destinatario di fondi, come inevitabilmente sarà, lo farà per il bene dell'umanità, ecco, messa in questo modo. Quindi io la seguirei anche questo aspetto, poi vabbè, si può metterle insieme, che in un domani dove si possa parlare si può farla anche vedere, perché alcune volte anche la comunicazione nel loro caso diventa proprio istituzionale, può spiegarci tante cose più di un, solo un bilancio che l'ENI può proporre. Ho finito, niente, era questa osservazione. Marco, Marco, tutto il resto. Allora, io mi ero già occupato di questa cosa, della faccia verde dell'ENI e del tipo di comunicazione. Ed è molto significativa, ha molti significati, soprattutto adesso che è stato presentato a Bruxelles il recovery plan. Esatto. Ci sarà un allacciamento lì, ne parleremo quando parleremo del recovery plan. Però c'è un altro aspetto che è incredibile, a monte di ciò, a monte della comunicazione, a monte del verde, che effettivamente sia verde, perché certe volte verde non è, perché comunque quando si pone al gas in sostituzione del petrolio, il gas è una fonte fossile, come fonte fossile in ogni caso inquina, punto e stop. Ma è incredibile, io avevo fatto uno studio specifico e fatto diversi incontri, come in questo piano del verde dell'ENI e della comunicazione di azienda rivolta al verde non si dica, si sottace, si mette sotto il tappeto una questione fondamentale, e come la politica non la mette sul tappeto. Attualmente, e non è cambiato con il recovery plan, sono i sussidi che lo Stato italiano dà al mondo economico sotto il profilo energetico, sono 19 miliardi e mezzo l'anno, 19 miliardi e mezzo l'anno che lo Stato dà per i consumi energetici. Ci sono delle cose infami che l'ENI gode, dico ENI perché è la principale, come quelle minori, di contributi, ripeto, 19 miliardi e mezzo che incentivano il consumo di gasolio, di benzina e di petrolio. È un mondo delle sovvenzioni che intercetta una varietà immensa di attori economici. Si può dire che ogni attore economico italiano ha i suoi contributi, i suoi incentivi sul consumo della benzina, del petrolio o del gasolio. Ricordiamoci che i gel gialli erano nati proprio per l'aumento del gasolio. Ed è incredibile come questi 19 miliardi e mezzo nessuno ne parla. E tantomeno l'ENI si guarda bene dal dirle: sì, sono rivolto al verde, ma col cazzo che rinuncia ai miliardi dei contributi che lo Stato gli dà, che dà all'economia per... È chiaro che se tu li dai all'economia per il quale contributo per il consumo che tu hai di benzina e di gasolio, col fischio che tendi al verde, tenderai solo e semplicemente al consumo di quello che oggi c'è. Sono 19 miliardi e mezzo. Ecco quindi dove sta la falsità intrinseca della comunicazione, soprattutto del non detto, del non detto. Quello è un aspetto poco noto, ma che deve essere assolutamente propagandato. Se decidete di fare qualcosa sulla cosiddetta transazione economica al verde, perché è fondamentale. Se ne può parlare anche quando si fa il recovery plan, certo. C'è qualcuno che parla del verde. Perché basterebbe bloccare i contributi. Voi sapete, scusate se finisco, che ogni rifornimento che fa Savona alla Costa Crociera, la Costa Crociera sostanzialmente a Savona alla sua base, diciamo, di partenza italiana, quando fa rifornimento, come noi facciamo rifornimento per la nostra automobile, e non vi so a dire qua in termini di litri quanti milioni di gasolio vanno dentro a una nave di quella portata lì, praticamente quelli beccano dei contributi, che quel rifornimento di gasolio è gratuito. alla Costa Crociere. È gratuito. Ragazzi, sono 19 miliardi e mezzo di contributi. E il legislatore è stato così perfido che questi contributi li divide in contributi nocivi per l'ambiente e contributi favorevoli all'ambiente. Quelli favorevoli all'ambiente sono pochissimi, che sarebbe la vera fonte rinnovabile, cioè che scarta tutta la fonte fossile. Gli altri sono tutti i contributi per l'incentivo dell'utilizzo della fonte fossile. Quindi i preti, insomma, hanno trovato degli allievi nella comunicazione. C'è una mano alzata? Devo aggiungere su questo tema, sempre riguardo energia, Italia e Sahel, che noi guardiamo l'Eni giustamente, però c'è altra multinazionale italiana, l'unica rimasta con l'Eni sostanzialmente a questo livello, che è l'Enel. L'Enel ha pagato, no, ha pagato, ci ha fatto pagare la costruzione delle centrali nucleari e la loro smobilitazione, che noi pagheremo per altri 50 anni in bolletta, lo sapete, no? Ma in bolletta ci ha fatto pagare anche la transizione alle fonti rinnovabili. E grazie a questo l'Enel, di tutte le compagnie che producono elettricità in Europa, è quella che è più presente nelle fonti rinnovabili. Mentre, ad esempio, la francese ed EDF è sostanzialmente in una crisi nerissima, perché è legata al nucleare, con centrali assai risalenti nel tempo e difficilissimi da mantenere, e con centrali di tipo nuovo che non riesce a costruire. Cioè, hanno fatto il reattore di quarta generazione e non riescono a costruirlo. E ogni reattore è costato, doveva costare 2 miliardi di euro, per ora sono giunti a 8 miliardi e così via. Ma a prescindere da questo, l'Enel aveva anche un piano per produrre elettricità da fonte rinnovabile in Africa. Cioè, uno dei piani per rifornire di fonti di elettricità, virgolette, pulita, dell'Enel è quello di porre nel deserto enormi campi di cellule fotovoltaiche ed esportarle con elettrodotto. Ecco uno degli altri aspetti della presenza italiana in Africa. Ma se voi pensate che un elettrodotto debba passare dall'Africa all'Italia, dovete pensare a dei bei sottomarini e a delle fregate che controllano la via dell'elettrodotto. Cioè, ogni passo avanti, virgolette, tecnologico, è un passo avanti militare nel dominio dell'Africa. C'è qualcun altro, qualche domanda, qualcuno? Devo solo precisare, facendo l'osservazione del compagno, che ho appena fatto due incontri sui cavi, di cui voi l'avete sviluppato comunque questo in una vostra pubblicazione, il discorso sui cavi di internet, i cavi sottomarini. In un caso l'Africa è al centro del flusso mondiale dei cavi sottomarini, che poi trasporta il 97% di tutti i dati, quindi è praticamente internet. È praticamente digitale mondiale, e dal punto di vista tecnico militare sia i russi che per ora la parte occidentale e la Gran Bretagna stanno sviluppando dei prodotti specifici sia in superficie sia sottomarini per il controllo dei cavi, per il monitoraggio dei cavi e per, la dico semplice, reperire come azione di pirateria le informazioni allacciandosi, dico in maniera molto semplice, ai cavi. Quindi perfettamente ha ragione il compagno. Ogni intervento tecnologico presuppone di pari passo il controllo della sicurezza di questo strumento tecnologico. E quindi ritorniamo al solito discorso militare. Ma sempre nota a margine. Prima ho citato la Turchia, ma non dimentichiamoci l'Iran. Chiudiamo un attimo il cerchio. Cioè Iran e Turchia, le due principali potenze, ci sarà poi anche il Pakistan di sottofondo, cioè dietro le quinte, le due principali potenze che saranno comunque portate a combattere una guerra, diciamo, più tradizionale, virgolette. Vogliamo collegare tutto con la questione palestinese, esplosa perché l'Iran deve contrattare la riapertura dell'accordo sul nucleare, cioè là non solo arriviamo a al gigantismo dal punto di vista dei conflitti aperti sul piano planetario e con controllo a distanza, ma rischiamo di essere anche coinvolti, volenti o nolenti, nella guerra dentro il mondo musulmano e nella guerra tra medie potenze che sono costrette a competere su un piano più arretrato. Sbaglio? No, non sbagli, però sarebbe da sviluppare. C'è un intervento che si è prenotato. C'è quello che ha alzato la mano può parlare, però deve accendersi il microfono. Sì, pronto, scusate. Sì. Puoi parlare? Sì, mi sentite? Sì. Dunque, io, vabbè, trovo interessante lo sviluppo della vorrei fare almeno un'osservazione, almeno ora. La questione del genere petrolifero. Se noi guardiamo l'ideologia del verde, eccetera, che io considero un'ideologia vera e propria, cioè uno strumento atto a risolvere questi problemi, il portavoce principale di questa politica non a caso è stata l'Europa, che non ha riserve, mentre in molti paesi le riserve petrolifere è prevedibile che vengano consumate nel giro di pochi anni. Quindi, o il prezzo del petrolio va alle stelle, quindi diventa impossibile consumarlo, oppure si trova un'altra soluzione. E non a caso, considererei sintomatico, se non altro, la politica ambientalista che viene svolta in alcuni paesi, in particolare dalla Germania. Questo ovviamente comporta tutta una serie di ribaltamenti e inversioni di tendenze vere e proprie, che hanno portato gli stati arabi stessi a fare delle politiche di conversione, o comunque le stanno attuando, iniziando, cioè cercando o con l'idrogeno o con altro, cercare di prevenire quello che sarà inevitabile, perché loro lo sanno benissimo, di cui ne sono perfettamente coscienti. Questo ha portato, ad esempio, a fare anche degli accordi economici con Israele e quindi a modificare quella che era la situazione politica precedente, in quanto, per esempio, nella questione palestinese, vabbè, certo, era coinvolta Hamas, come si chiama il gruppo Abbas, no? Però non hanno difeso i palestinesi come hanno sempre fatto, almeno a parole, insomma. Vabbè, queste sono conseguenze per la Palestina, ma le conseguenze ovviamente le avremo in tutti i rapporti interimperialistici, non solo in questi. Quindi, condivido il compagno che diceva che non bisogna più appoggiare atteggiamenti pacifisti, eccetera, bisogna combattere il militarismo, come lui ha dimostrato, e soprattutto la politica ideologica, che così come vogliono spacciare, come usano il Covid per dimostrare che stanno salvando la vita delle popolazioni, lo pretendono di raccontarci che stanno salvando la vita del pianeta. In realtà stanno solo salvando le loro fonti di controllo sui mezzi di produzione, quindi sulla stabilità stessa del pianeta. Vabbè, volevo fare solo questa osservazione, scusatemi. Se c'è qualcun altro. Daniele, dobbiamo vedere come proseguire la cooperazione. Non con un ONG, naturalmente, come se no Francesco si offende. No, io sono sempre disponibile. Guarda, Marco lo sa, che è quello che conosco meglio, è fatto ad oggi. Con questo sono 244 incontri da 2015 ad oggi. Io li chiamo incontri perché per me, adesso che sia fisico online, è chiaro che incontro l'incontro fisico, ma comunque per ragioni di necessità siamo qui così. Per me l'incontro non è solo e tanto dire cose che uno dà un'informazione e che soprattutto quello che mi è piaciuto stasera, che si originano delle riflessioni. Quindi tu lanci delle riflessioni, no? Dai un'informazione, ma che vale se è frutto poi di un'elaborazione, di una riflessione, perché altrimenti, non dico se cade nel vuoto, ma se cade anche paradossalmente nella condivisione totale basta, quando la gente non discute vuol dire che non è riuscito. Ma l'incontro è la parola stessa, l'etimologia della parola stessa. Incontro vuol dire incontrare delle persone. E sai cos'è che è successo in questi 244 incontri? Io sono otto luoghi, come farò settimana prossima, finalmente che si può riaprire, che poi a seguito degli incontri, dove mi hanno chiamato in varie parti d'Italia, io ci ritorno, ma non per fare un incontro, per andare ad abbracciare le persone che ho incontrato durante una chiacchierata come questa, perché si è stabilito una relazione umana. E quindi venerdì, sabato, domenica, riparto mattina, vado giù in Sabina, li ho conosciuti fisicamente in un incontro a Roma, in Sabina, in ottobre scorso, è nata un fortissimo legame, e vado giù semplicemente per mangiare con loro, per stare 3 giorni con loro e per abbracciarci. Questo è il senso ultimo dell'incontro. Noi, in una società in cui il verbo è quello dell'autorappresentazione, sono diventati tutti degli Strelle o dei Carmeli Bene, cazzo, quando questo è un male enorme. Riconduciamo anche le collaborazioni all'aspetto essenziale, che è quello umano, che non vuol dire pensare a tutto nello stesso modo, anzi, se proprio non la pensiamo, mi dà un elemento in più per riflettere. Però di incontrarci, penso, incontrarci, faccio un incontro, soprattutto incontro le persone. Quindi, per quello che ho detto, disponibilissimo, ma soprattutto sotto il punto di vista di informazione, disponibilissimo. Suggerisco un incontro sul recovery plan con Marco, perché da lì si intercetteranno tanti temi che abbiamo detto oggi. Difatti, soprattutto sul legame industria, transizione digitale, ecologica, armamenti. Non appunto. Va bene, ragazzi. Va bene. Se non c'è nessuno, io vi saluto e vi ringrazio. Grazie a te. Bene, ci vediamo, state bene. Ma tu sei... Io e te ci vediamo, l'abbiamo detto, l'ho segnato sul calendario. Sì, anch'io. Okay. Così mi porti il tuo libro. Okay. State bene. Buon proseguo. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. Ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Allora, ciao. Ciao. Va bene, ragazzi, se non c'è altro chiudiamo. Sì, sì. Sì, okay, ciao. Naturalmente Francesco dovrà specificare appena può come affrontare la questione Israele-Palestina. E dobbiamo prima vedere se riusciamo a mettere in piedi il palinsesto, poi come abbiamo la cosa, certo. Vedremo di come articolare noi, ecco. Sì. Va bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.